Quindi se vuoi solo fare un saluto a tutti i nostri amici di Radio Antidoto. Ah, certamente, grazie, grazie di aver ascoltato e buona domenica e buona vita grazie, a tutti. Grazie, grazie molte. Ciao a tutti, a presto.